and we'll apply them as well. E i fiori tutti secchi lì. Guarda che sono ancora del mio compleanno quelli lì. Mancano tanti del 7 aprile, sai? Ho fatto tanti fiori. Oh, felicitazioni! Sì, ma la differenza è degli anni, sai? Sai quanti ne ho io? E lo sai, sì. Oh, ma cosa diranno tutte queste tisane qua? Oh, bon bon. Guarda quante che ne ho là. Ora, Leo, amica, per questo inverno faccio altro che dormire. Bevo le tisane, quelle fanno dormire. Si svegliano per andare a fare la pipì, però. Sì. Fai, fai. Le foto che devi fare. Falle belle, però. Aspetta che tiro via i miei gnocchi. Sì. Sono congelate, sai. Ho tirato fuori.